Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, torniamo questa sera al Fuel Cell Lab che fa parte di un consorzio di enti di ricerca chiamato Atena con sede all'Università Partenope di Napoli, dove sono specializzati evidentemente nello studio proprio delle celle a combustibile, nelle Fuel Cell. Ricordiamo rapidamente che cosa sono. Sono un po' come delle batterie, quindi generano elettricità per via chimica, solo che invece di avere i reagenti impacchettati al loro interno, alle celle a combustibile si continuano a fornire reagenti dal esterno. Con cosa funzionano? Funzionano con idrogeno oppure per esempio con metano o altri composti organici come gli alcol, e ce ne sono di vario tipo, ci sono applicazioni commerciali per questo tipo di celle a combustibile. Stasera invece parliamo di una tipologia di cui direi non esistono applicazioni commerciali, decisamente più di frontiera, le celle a combustibile microbiche, dove cioè, come dice il termine, questi reagenti famosi e li forniscono direttamente dei microbi. Buonasera a Nicole Iannelli. Buonasera. Ricercatrice del Fuel Cell Lab dell'Università Partenope di Napoli, che si occupa appunto di queste celle microbiche. Allora, proviamo a spiegare come funzionano. Sì, allora, le celle microbiche sono dei bioreattori e al loro interno avviene la produzione di energia elettrica grazie alla presenza di batteri, di microorganismi. Questi infatti sono in grado di produrre idrogeno durante delle reazioni che sono le reazioni che caratterizzano la loro normale attività metabolica. E quindi, noi buttiamo fuori CO2, no, ispiriamo CO2, loro espirano, tra virgolette, idrogeno, più o meno. Sì, possiamo dire così, sì. E le reazioni che avvengono sono proprio le stesse di quelle che abbiamo nelle celle a combustibile, e quindi che ci consentono di ottenere energia elettrica. Ecco, quindi in pratica questi batteri producono l'idrogeno che poi la cella a combustibile trasforma, come tutte le celle a combustibile idrogeno, in energia elettrica. È un po' così che funziona? Sì, più o meno sì, diciamo di sì. Quindi sì. Una batteria abitata appunto da dei microorganismi. Sì, e questi microorganismi si nutrono, ecco, di rifiuti organici, e quindi queste celle vengono alimentate invece che, come diceva lei prima, mettere idrogeno o mettere alcol. Ci buttiamo la spazzatura, la parte organica della spazzatura. E questo è molto interessante e ci dice qual è anche la direzione in cui si pensa di applicare questi apparati. Sì, fa capire come mai c'è un interesse crescente nei confronti di queste tecnologie, perché questo interesse è spinto fondamentalmente da due grandi problemi che comunque caratterizzano le società moderne, che sono sia la gestione di rifiuti che la ricerca di nuove fonti di energia. Ecco, che tipo di rifiuti sono in grado di metabolizzare, di mangiarsi, questi microorganismi? Diciamo che ci sono due linee principali come applicazioni. Una che tratta rifiuti tipo organico, quindi la frazione solida del rifiuto organico, e altre invece più acque reflue, quindi un rifiuto di tipo liquido. Senta, sì. Quali sono i vantaggi di questo approccio rispetto all'approccio che poi è già anche utilizzato più tradizionale, e cioè si usano questi rifiuti organici per produrre biogas, biometano tipicamente, o biogas appunto, che poi può essere immagazzinato o bruciato con delle turbine per produrre energia elettrica. Qual è il vantaggio nel vostro caso? La parola chiave per capire qual è il vantaggio sta proprio nella parola che ha utilizzato lei, bruciato. Normalmente in queste tecnologie avviene una combustione, nelle tecnologie che vengono tradizionalmente utilizzate, mentre invece all'interno di queste celle non c'è combustione. E i rendimenti della combustione, non solo da un punto di vista ambientale, provocano una serie di inquinanti che vengono rilasciati in atmosfera. Ecco, per esempio, visto che ormai questi sono termini che conoscono praticamente tutti, i famosi NOx, no? Sì, si producono solo con delle combustioni a temperature molto alte, no? Molto. Altrimenti questa sostanza inquinante, che è tossica, non viene prodotta. Sì, a seconda poi di come avviene il processo di combustione, certo. Invece in questo caso, in queste tipologie di tecnologie, non abbiamo combustione e quindi non abbiamo alcun impatto ambientale, anzi la materia organica, quindi il rifiuto che viene digerito in queste celle, alla fine del processo può essere anche utilizzato come concime, come quindi stiamo andando ad inertizzare la materia organica. Ecco, quindi nessuna emissione inquinante, si spera, e anche rendimenti che in teoria, rendimenti elettrici che in teoria potrebbero essere più alti di una centrale termoelettrica. sì, diciamo a livello teorico sì, ovviamente noi stiamo parlando di una scala, diciamo a livello di laboratorio, rispetto alla scala industriale poi ci saranno una serie di complicazioni che bisogna andare a risolvere facendo uno scale up della tecnologia, però diciamo a livello teorico, non passando per una combustione, si possono avere rendimenti più alti, così come si hanno con le celle a combustibile rispetto alle tecnologie Infatti. Tradizionali. Ecco, la sfida è proprio arrivarci veramente a questi rendimenti in modo da rendere economicamente anche vantaggiose appunto queste tecnologie. Va bene, grazie Nicole Giannelli. Grazie mille a lei. Ci fermiamo qui, appuntamento come sempre a domani, buona serata.